Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, benvenuti. Oggi è venerdì, in studio qua con me c'è il nostro ospite fisso del venerdì, il dottor Confalonieri. Buongiorno. Buongiorno, ben ritrovati tutti. Abbiamo però anche Filippa Oreggi, regia la parte tecnica, come sempre Laura Vanossi in redazione. Vuole lanciare il nostro sommario? Va bene, ascoltiamo il sommario. Ok. Tennis, squash e tennis tavolo. Un mondo tutto da scoprire. Fallo insieme a noi. Uova di Pasqua dell'AIL. Diamo vita alla ricerca. Fai un bel respiro e preparati al weekend. Dottor Confalonieri, noi abbiamo nuotato, abbiamo corso, siamo andati in bici. Oggi però abbiamo deciso di fare le cose alla grande, abbiamo deciso di aumentare la posta in gioco e non parleremo oggi di un solo sport, ma ne mettiamo in tavola tre. Oggi infatti parliamo di tennis, squash e tennis tavolo. 824-0024, se siete amanti di questi sport, se state accarezzando magari l'idea di buttarvi, 349-238-6666 se volete mandarci un messaggio. Dottor Confalonieri, lei da che parte sta? Ma questi sono sport che amo, diciamo che oggi parliamo degli sport con la racchetta, quindi sport molto molto diversi da loro come caratteristiche. Se ci fosse qualche appassionato anche di badminton o di pelota, siamo pronti ad ascoltare anche loro, proprio tutti coloro che oggi vogliono parlarci di uno sport con una pallina, una palla e una racchetta. Io personalmente nel tennis tavolo sono piuttosto bravo, devo dire la verità. È uno sport nel quale riesco... Se lo dice da solo o glielo dicono gli altri? No, me lo dicono in tanti, anche perché all'inizio mi danno poche chance, però poi quando gioco sono di quei giocatori antipatici, cattivi, che giocano tutto taglio, tutto effetto, si muovono non tantissimo, ma è uno sport dove riesco ancora a vincere e mi dà soddisfazione. Senta, dottor Confalonieri, secondo lei ci vuole il fisico, una sorta di predisposizione, o in teoria sono tutti sport che potrebbero praticare tutti con un buon inizio? Beh, diciamo che sono sport in cui ci vuole un minimo di predisposizione dal punto di vista delle capacità coordinative, delle abilità manuali, delle abilità motorie. Dal punto di vista fisico sono sport più o meno impegnativi, lo squash è uno sport molto impegnativo, il tennis dipende da come lo interpretiamo, il tennis tavolo non in forma agonistica è relativamente meno impegnativo, però direi che le differenze sono soprattutto sul piano delle abilità motorie. Tutti possono farlo, però la soddisfazione è funzione di quanto siamo capaci di gestire con intelligenza il nostro corpo. Controindicazioni ce ne sono? Parecchie, ne parleremo nel corso della nostra trasmissione all'824-0024, ma abbiamo tre testimonial. Abbiamo in linea con noi Rita Grandi, una tra le più famose e più forti tenniste italiane. Buongiorno. Buongiorno a voi. Per lo squash abbiamo un cavaliere, Simone Rocca, allenatore delle nazionali juniores. Buongiorno. Buongiorno a voi. E poi c'è una Nicoletta Stefanova, che è giocatrice della nazionale italiana del tennis tavolo. Nicoletta, una garanzia? Speriamo, buongiorno a tutti voi. Allora, tre professionisti, tre campioni che diventano testimonial di ciascuno, no? del loro sport. Inizierei da Rita. Rita, sì, il tennis, secondo me ci vuole un po', bisogna essere un po' portati al tennis. Ci sono persone come me che ci hanno provato in tutte le salse, con le lezioni collettive, con le lezioni di gruppo, eccetera. Poi la pallina arrivava sempre troppo vicino, troppo lontana, insomma, poi uno butta la racchetta alle ortiche. Ci vuole un po' di predisposizione, e cosa serve per iniziare bene il tennis? Ma il tennis è uno sport completo e certo che ci vogliono delle disposizioni fisiche e mentali, però io dico che è uno sport per tutti, a patto che non ci siano problemi cardiovascolari. Si può praticare dai 5 anni ai 70 anni e a mio avviso è un bellissimo sport perché si può praticare tutto l'anno e poi è anche facile, tra virgolette, perché hai bisogno di una racchetta, di un abbigliamento, di un paio di scarpe e di un compagno di gioco, quindi puoi praticarlo sempre e dovunque. E di molta concentrazione. Ah, questo assolutamente sì, perché mi ripeto, c'è bisogno sì di attitudini comunque fisiche, ma anche mentali, perché ci vuole un pensiero strategico, nel senso devi battere il tuo avversario e quindi devi usare una certa strategia, quindi la mente è fondamentale sia prima che durante che dopo. Ho capito perché con il tennis non andavo tanto d'accordo, proverò con lo squash. Simone? Sì. Chi gioca a squash deve sapere giocare a tennis oppure sono due cose simili ma diverse? Questo è un tabù da sfatare, perché sono due cose simili proprio per il fatto che ci sono la racchetta e la pallina, ma sono totalmente diversi, e quindi una persona che non ha mai giocato a tennis può tranquillamente giocare a squash. Io ne sono un esempio, che faccio il professionista di squash da tanto tempo e non ho mai giocato a tennis. È uno sport molto impegnativo, faticoso e anche come dispendio calorico non scherza. Sì, il dispendio calorico nell'arco dei tre quarti d'ora classici quando si gioca è molto elevato, infatti è al terzo sport come dispendio calorico dopo la boxe e il canottaggio. Quindi diciamo che è faticoso, però in ogni caso è uno sport per tutti, nel senso che possono giocare due o tre volte alla settimana tutti ed è tranquillamente fattibile questa cosa, ecco. Andiamo a Nicoletta. Nicoletta. Salve, sì, sono allora, qua. Tennis tavolo, spesso si sente chiamare ping pong, invece tu voi ci tenete a distinguere i due termini. Beh sì, per noi atleti, diciamo così, professionisti, il termine ping pong un po' ci fa arrabbiare, perché comunque il tennis tavolo è un altro sport ad alto livello, fatto di concentrazione, di tutte quelle caratteristiche che avete appena detto. Sì. Quindi il ping pong è un po' più da relax, da spiaggia, ecco. A me piace del ping pong l'idea, adesso il dottor Confallonieri dice che è bravissimo, Nicoletta vorrei farlo giocare con te, non so. Vabbè, non sono a questo livello comunque, certamente. Ma devo dire che dà soddisfazione perché sembra alla portata di tutti, poi magari uno non gioca granché bene, ma comunque è socializzante, e il fatto è proprio l'accessibilità del tennis tavolo che mi piace. Ma adesso che voi avete in breve illustrato avete cercato di spingere un po' queste attività sportive, lascia la parola al dottor Confallonieri, che come tecnico magari ha qualche domanda, qualche puntualizzazione da fare. Dottore. Sì, partiamo dal tennis, seguiamo l'ordine che hai già seguito e volevo chiedere a Rita, c'è una grande differenza secondo me tra il tennis in singolo e il tennis in doppio. Per cominciare probabilmente è meglio cominciare con il doppio, volevo sapere se lei era d'accordo e che magari ci sottolineasse alcune delle differenze fra queste due tipologie di tennis. Allora io non sono d'accordo, inizierei col singolo, inizierei sicuramente con un maestro per imparare la tecnica soprattutto del colpo e poi mi divertirei a giocare il doppio, però prima insegnerei il singolo, perché sono appunto le regole da sapere, sono le stesse del doppio, però comunque ti permettono di giocare quando vuoi e quindi è molto più facile organizzare un singolare di un doppio. Certo. Il doppio lo riserverei alla domenica per giocare con gli amici al club e poi per fare un pranzo assieme, per socializzare un po'. È vero, tutti insieme appassionatamente. Io sono un individualista, quindi mi piace molto la competizione, quindi preferisco il singolare. Eccola lì che viene fuori l'atleta. Non dare la colpa al mio compagno se vinco, insomma, se perdo, e insomma prendere i meriti se vinco. Passiamo allo squash, dottor Confallonieri. Speriamo che mi vada meglio, insomma, con lo squash. Ho iniziato malissimo con il tennis, cercherò di recuperare. No, ecco, lo squash si dice che sia uno sport particolarmente indicato, così come la box, che già prima correlavi allo squash, per scaricare la tensione, per bruciare l'energia, per ricaricarsi, soprattutto se si è sottoposti a una vita particolarmente stressante. Mi puoi confermare queste caratteristiche praticando la abitualmente o no? Esatto, stavolta non ha sbagliato giudizio, infatti è uno sport che in tre quarti d'ora ti permette di scaricarti, di tirare questa pallina contro il muro e ti aiuta tantissimo appunto nello scaricare lo stress, perché giochi col tuo avversario che è a fianco a te e hai voglia di agonismo, corri, sudi e comunque scarichi moltissimo. Tantissimi giocatori che comunque lavorano lo usano per questo motivo, fanno un sacco di movimento e scaricano lo stress. è arrivato il suo punto forte, il suo preferito, il tennis tavolo, che devo dire è il preferito di molti dei nostri ascoltatori. Stanno arrivando molti messaggi sul tennis tavolo, ad esempio anch'io sono molto brava al tennis tavolo, ci scrive un'ascoltatrice, è proprio una passione, è stato mio padre ad insegnarmi, stavamo ore al tavolo senza mai stancarci. Una domanda anche per Nicoletta? Sì, vorrei che mi confermasse due cose a cui io credo molto, però se ce le confermo un'esperta di altissimo livello forse meglio. Il primo, se il tennis tavolo è uno sport che si può consigliare anche ai bambini, perché dal mio punto di vista è eccellente nel sviluppare le capacità coordinative, la reattività, la velocità, che sono due doti da allenare nel bambino. E poi sfatare un mito: non è vero che il tennis tavolo, soprattutto a livello agonistico, sia così riposante. È uno sport dove si fa fatica e si consuma energia, o no? Nicoletta. Comincio dalla prima risposta. Sicuramente sono d'accordissimo, per è indicato per i bambini, infatti si comincia molto, molto giovani a praticare questo sport, e fa molto bene sia per la concentrazione che per la coordinazione. Abbiamo bambini in società che iniziano a 4-5 anni e io ho anche cominciato molto giovane, quindi sì, lo consiglio a tutti i bambini di cominciare presto. E poi sì, per la seconda risposta, beh sì, è molto faticoso, anche se non sembra, infatti abbiamo quotidianamente 3-4 ore di pressione fisica, di forza veloce, rapidità, resistenza. Allora, io credo che i nostri ascoltatori abbiano gli elementi indispensabili e sufficienti almeno per confrontarsi con noi. Abbiamo preso là con tre grandi campioni che salutiamo e ringraziamo per essere stati con noi. Buon gioco, buona partita, buon tennis tavolo, buono squash, buon tennis. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Ciao a tutti. Ciao, oh, divertitevi. Ciao. Grazie. 800 24 00 24, se volete parlarne con noi, se volete divertirvi con noi a parlare magari anche dei vostri limiti, tante volte proprio sul campo siamo un po' goffi. 349 238 6666, se invece preferite lasciarci un messaggio. Una mela al giorno. Torna un appuntamento a noi particolarmente caro, torna le uova di Pasqua per la ricerca, un'iniziativa targata AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma, e in linea con noi abbiamo il presidente dell'AIL, professor Franco Mandelli. Buongiorno professore. Buongiorno a voi e grazie sempre. Fiorisce la primavera, fiorisce la ricerca. Io penso di sì, per una volta ancora saremo a lottare insieme a tanti italiani che credono in noi per riuscire a raccogliere finanziamenti per favorire la ricerca. Io dico sempre che la ricerca porta a risultati che magari si vedono dopo qualche mese o qualche volta anche dopo qualche anno, ma dietro i risultati della ricerca c'è poi la possibilità di curare meglio i nostri malati, quindi di dare una possibilità di cura a più malati rispetto ad oggi, addirittura di farne guarire di più. Professore, voi insistete anche sull'importanza della diagnosi precoce. Io penso che una diagnosi certa e sicura è un problema che coinvolge tante volte notizie drammatiche in tutta l'Italia. I centri di ematologia dall'estremo nord all'estremo sud sono strutturati in modo che medici, infermieri e volontari collaborino fra di loro in modo tale che i malati che arrivano ai centri di ematologia abbiano una diagnosi sicura, anche precoce, perché avere una diagnosi certa significa anche poter curare meglio questi malati e dare le cure migliori è un dovere da parte dei medici e degli infermieri, ma è un diritto che tutti i malati devono avere in tutta l'Italia, e questo i centri di ematologia lo fanno e lo fanno molto bene. L'ematologia è una delle branche migliori della medicina interna in tutto il mondo, ma l'Italia è schierata a livello dei migliori centri d'Europa e degli Stati Uniti. Questo grazie proprio alla ricerca e alla fiducia che noi anche diamo nella ricerca. Quindi appuntamento, professor Mandelli, nelle piazze con le uova di Pasqua per la ricerca. Se volete sapere l'indirizzo delle piazze, localizzarle, basta andare sul sito dell'AIL. Professor Mandelli, intanto io la ringrazio. Io ringrazio voi, grazie mille. Buon lavoro, buona ricerca. Buongiorno. Grazie. Pronto soccorso. Oggi parliamo di diritto rovescio, ma non solo, proveremo anche a giocare a squash e anche a tennis e tavolo. Ci aiuta il dottor Franco Confalonieri, che ci ha già detto che è forte con il tennis tavolo, ma sicuramente potrà anche darci dei suggerimenti, dei consigli per tutti coloro che invece giocano a tennis, magari avete qualche difficoltà, magari pensate proprio di riprendere il tennis che avete abbandonato oppure darvi allo squash. 800 24 00 24, questo è il nostro numero verde. Intanto voglio leggere il messaggio di Luca da Bergamo, che ci scrive: sono stanco di andare in palestra, ma se non scarico lo stress divento matto. Lo squash dopo il lavoro potrebbe essere una valida alternativa? Rispondo. Sicuramente sì, in parte abbiamo già sentito anche dallo specialista che ci confermava questa cosa, è un'alternativa, anche se gli effetti sono un pochettino diversi. In termini di gestione dello stress, di liberazione delle endorfine, sicuramente siamo su un piano analogo. Sul piano organico diciamo che lo squash ha un effetto prevalente a livello cardiovascolare, mentre l'attività in palestra, soprattutto quella con i pesi, ha un effetto prevalente a livello muscolare. Quindi in termini di risultati per la nostra salute, probabilmente sono due attività un po' diverse che potrebbero essere utilmente integrate. In termini invece di gestione dello stress e benessere globale, direi che si possono tranquillamente una sostituire l'altra. Andiamo a Pordenone, ci aspetta Umberto. 800 24 00 24. Umberto, buongiorno, questa è la combinazione per entrare nella nostra trasmissione. Buongiorno. Io chiamavo perché, innanzitutto grazie perché ci state acculturando a livello sanitario. Comunque chiamavo perché ero un appassionato di squash, poi ho avuto problemi perché nell'intervallo del mezzogiorno, invece che pranzare, andavo a giocare a squash con un amico. Dopo mi sono venuti fuori dei problemi al cuore e il medico mi ha consigliato di smettere. Quindi non faccio più movimento, sto ingrassando come un maialino, no? Perché lei ride, ma purtroppo è così. E l'unica attività che riuscivo a fare appunto nel lasso di tempo dell'intervallo del mezzogiorno era questa partita a squash che mi tonificava, mi corroborava e riaffrontavo il resto della giornata con altro entusiasmo. Praticamente lo facevo quasi ogni giorno. Adesso invece non faccio più niente. Volevo sapere se effettivamente questo problema al cuore mi limita questa attività. Grazie, grazie Umberto. Dottor Confalonieri. Beh, chiariamo bene, non credo che possa esserci una correlazione tra l'insorgenza dei problemi cardiaci e la pratica dello squash, cioè non è che lo squash scateni problematiche cardiache. Indubbiamente però, essendo uno sport ad elevatissimo impegno cardiovascolare, soprattutto con un impegno che è molto rapido e quindi è molto elevato, con tempi di risposta e di adattamento appunto rapidi, non è indicato per chi presenti di suo problematiche cardiovascolari specifiche. Allora, quindi il consiglio che possiamo dare al nostro ascoltatore è di non sostituire lo squash con la tavola, ma di sostituire lo squash con un'attività che magari sia meno impegnativa dal punto di vista cardiovascolare. Umberto ha detto: sto ingrassando come un maialino, me lo sono visto tondo, sì, e rosato. Ha un'ora di tempo, come Umberto molti, e cosa si può fare in quel lasso di tempo al posto della pausa pranzo, senza saltarla però, per stare bene, stare in forma e nello stesso tempo ricaricare un po' quelle energie che sono necessarie per affrontare la seconda parte della giornata, adesso che viene la bella stagione? Beh, le alternative sono diverse. È difficile pensare a uno sport divertente, perché a questo punto lo squash, come il tennis, come il calcetto, difficilmente si possono fare nell'intervallo di mezzogiorno, e soprattutto se ci sono problemi non sono risolvibili. Potrebbe dedicarsi a uno sport individuale, penso al nuoto, che sicuramente è super indicato e per cui basta mezz'ora ad avere degli effetti importanti, come più semplicemente alla corsa. Per la bicicletta invece un'ora è un po' pochino, ecco. Non ha detto tennis tavolo però. Perché è difficile trovare gli spazi per farlo, quindi ho fatto un consiglio un po' bisognerebbe, pratico. Bisognerebbe mettere un tavolo da ping pong immensa all'ingresso della mensa e una bina alle due Federico cose. Federico da Treviso, buongiorno, lei gioca tennis tavolo oppure no? No, ahimè, giocavo da piccolo, mi piaceva molto. E come giocavo moltissimo anche a tennis. E poi cosa è successo? Ma poi è successo che ho iniziato a studiare musica, in particolare violino, e il mio insegnante mi ha caldamente raccomandato, cioè mi ha vietato di giocare ovviamente a pallavolo e poi anche a tennis, perché diventava un problema per, appunto, per la tecnica dello strumento. Federico, lei adesso fa il violinista? Sì, adesso faccio il violinista. No, grazie, tanto per immaginarlo. Dottor Confalonieri, la pallavolo sì, certo, perché... Pallavolo, il basket, questi frequenti. Sport qui, sì. Beh, indubbiamente nel tennis un minimo di rischio legato per esempio al polso o a un sovraffaticamento della mano potrebbe esserci. Però direi che una partitella ogni tanto, tutto sommato, potrebbe con un minimo di attenzione ancora concedersela. Sono giuste queste preoccupazioni dell'insegnante, però in questo caso mi sembrano anche un pochettino eccessive, anche perché obiettivamente, al di là dell'evento traumatico, non credo che in termini di sensibilità e di motricità della mano possano esserci controindicazioni legate alla partitella di tennis. Tennis squash, tennis tavolo. Se praticate uno di questi sport, la puntata è dedicata proprio a voi. Chiamateci, il nostro numero verde è a vostra disposizione come sempre, 800 24 0024. Ma naturalmente invito anche chi, pur non avendo mai preso una racchetta in mano, sta accarezzando l'idea di farlo. Nell'attesa delle vostre telefonate, una buona notizia per chi è affetto da degenerazione maculare legata all'età. Infatti ora è disponibile, a carico del Servizio Sanitario Nazionale, un anticorpo monoclonale, il ranizumab, che ha misurato tra l'altro la sua efficacia in un ampio programma di studi clinici. Bene, il sistema di rimborso presenta delle caratteristiche particolari che potremmo riassumere nello slogan efficace, rimborsato. Ne parliamo col professor Walter Ricciardi, direttore dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane e direttore dell'Istituto di Igiene dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma. Buongiorno professore, benvenuto. Buongiorno, grazie. Sì, effettivamente è una buona notizia, perché la degenerazione maculare della retina interessa moltissimi anziani in Italia, stiamo parlando di migliaia di persone, quindi il fatto che questo farmaco sia oggi diventato rimborsabile da parte del Servizio Sanitario Nazionale è sicuramente un fatto positivo. Rimborsabile in che senso? Nel senso che se viene dimostrata l'efficacia del trattamento, che consiste in una serie di iniezioni del farmaco all'interno del globo oculare, ed è facile capirlo perché la vista viene mantenuta o migliorata, diciamo anche in tarda età, e allora questo significa che il trattamento efficace allora viene effettivamente rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale. Se invece il trattamento non funziona, questo rimborso non avviene. Allora, in pratica può succedere che il trattamento deve essere effettuato in centri particolarmente specializzati, perché è estremamente delicato dal punto di vista pratico. Questo centro ha il farmaco che gli viene affidato dalla ditta fornitrice, e poi questo rimborso effettivamente del farmaco, cioè il pagamento del farmaco, viene effettuato nel momento in cui il trattamento è efficace. Si tratta in qualche modo di una sorta di condivisione del rischio da parte dell'azienda che ha prodotto il farmaco e naturalmente della struttura che lo eroga, ed è su farmaci non oncologici la prima volta che questo succede. Professor Ricciardi, io la ringrazio per essere stato con noi, buona giornata. Grazie a voi, buon lavoro a voi. Ed eccoci qua con la racchetta in mano. Si chiamano tutte racchette per lo squash, per il tennis e per il tennis tavolo? Direi di sì. 824 0024 se volete intervenire, come fa Maurizio, che ci chiama dalla provincia di Lucca. Buongiorno Maurizio, benvenuto. Buongiorno e grazie. Allora, a che cosa si gioca lì nella provincia di Lucca? Allora, io ho 53 anni e gioco a tennis e a squash 2 o 3 volte la settimana. Caspita. Alternando, dipende anche un po' dal tempo, se il tempo è bello, brutto, perché mi piace giocare all'aperto, se gioco a tennis, se no gioco a squash. Però da 3 o 4 anni, premetto anche che sono donatore di sangue, quindi penso tranquillamente controllato dal punto di vista di analisi e cose varie. Sì. Però da 3 o 4 anni... molto spesso, 6 o 7 ore dopo che ho finito di giocare, mi insorge il mal di testa e non mi va via in nessuna maniera, proprio un mal di testa abbastanza feroce. E ho cercato tutti i medici che conosco, nessuno è riuscito a darmi una spiegazione logica. Senta Maurizio, lei lo lega comunque alla sua partita? Sì, sì, perché mi succede sempre, costantemente. E quindi uno va un po' a giocare, un po' col cuore pesante, preoccupato. No, a volte mi succede. E certo. Sì. Dottor Confalonieri, dopo tante ore, beh, arriva diciamo il mal di testa, che... da sforzo? Indubbiamente è difficile, questa è già una diagnosi complessa, farla così a distanza è ancora più difficile, però potremmo prendere spunto dall'esperienza del nostro ascoltatore per fare una considerazione generale che, se siamo fortunati, sarà utile anche per lui. E probabilmente qui ci sono delle problematiche legate alla spalla e all'interazione che c'è tra, diciamo, la spalla e la regione cervicale, per cui probabilmente c'è una sollecitazione eccessiva a questo livello che determina uno squilibrio che si manifesta con il mal di testa, legato poi alla contrattura che insorge in funzione di questi squilibri. Sto semplificando molto, se mi sento un ortopedico probabilmente non ridisce, ma insomma cerchiamo di banalizzare il messaggio. Queste contratture reattive poi possono comportare l'insorgenza di questo dolore. Credo che questa sia l'ipotesi più probabile. Un'ipotesi alternativa può essere invece di tipo metabolico, se vogliamo, e cioè quel calo dell'adrenalina conseguente all'attivazione dell'adrenalina stessa che ci è stata impartita. Allora in questo caso potrebbe essere paragonabile un po' al mal di testa della domenica, di cui soffriamo in tanti, no? La domenica cala la tensione legata alla settimana lavorativa, abbiamo mal di testa. Qua, per una situazione ormonale paragonabile su un tempo più breve, insorge il mal di testa dopo l'attivazione conseguente alla partita. Ecco, ho dato due interpretazioni senza fare la diagnosi, ma che potrebbero essere utili un po' a tutti. Speriamo che una delle due sia utile, no, al nostro Maurizio. Allora, io, prendendo spunto dalla telefonata di Maurizio, mi allargherei alle controindicazioni. Non possiamo pensare, cioè non è corretto definire il mal di testa di Maurizio come una controindicazione, ma Maurizio mi ha dato il là e quindi le passo la palla. Bene, vediamo di rispondere di diritto. Allora, indubbiamente questi sono sport che hanno una controindicazione di fondo, e cioè il fatto che sono sport monolaterali, per cui sono sport che impegnano sia la parte superiore che la parte inferiore del corpo, ma indubbiamente impegnano prevalentemente, soprattutto a livello superiore ovviamente, l'emiparte con la quale giochiamo, certo. Quindi la destra piuttosto che la sinistra. Questa è una grossa controindicazione soprattutto per i bambini, per cui sarebbe utile abbinare questo tipo di sport con uno sport più completo, bilaterale, in modo che non ci siano in fase di crescita degli squilibri che poi possono comportare delle problematiche. Quindi, dottor Confalonieri, mi interessa molto, perché per anni si diceva non fare iniziare il bambino a giocare a tennis presto, non dobbiamo evitare il tennis ma abbinarlo ad un altro sport, e questa è la tendenza? Allora, non dobbiamo evitarlo perché diciamo gli aspetti positivi superano di gran lunga queste controindicazioni. Sì. E sono il fatto che è uno sport divertente, uno sport agonistico, uno sport che allena la reattività, le capacità coordinative e la velocità, e che allena il sistema cardiovascolare. Dobbiamo tenere conto di questa controindicazione o integrandolo con un'attività completa, o, come fanno ormai gran parte dei circoli e gran parte dei maestri, facendo una preparazione atletica, una ginnastica mirata che riequilibri l'allenamento muscolare. La stessa controindicazione sono presenti nello squash, o lo squash ne ha qualcuna di diversa, e per il tennis tavolo, così poi diamo, allora, la linea Massimo che ci chiama da Milano. La stessa controindicazione presente per lo squash è minore per il tennis tavolo, in quanto applichiamo forze minori nel colpire, e quindi diciamo la differenza muscolare è minore. Poi ci sono controindicazioni diverse, soprattutto a livello, sarò molto breve, degli arti inferiori, sia per lo squash che per il tennis, sono legate soprattutto alla necessità di movimenti rapidi, per cui dobbiamo essere sicuri di avere caviglie e ginocchia perfettamente funzionanti e ben rodate, perché sennò sono sport a rischio sia per un sovraccarico cronico sia per un sovraccarico acuto delle caviglie e delle ginocchia. E poi ovviamente, essendo sport che sollecitano molto la schiena e la colonna, dovremmo essere sicuri di non avere fattori predisponenti, patologie a livello della schiena e della colonna, perché sono molto impegnate in questi sport. Lei aveva mandato un invito, un messaggio ai giocatori di pelota, ma non lo so, forse Massimo ci ha accontentato. Massimo, buongiorno. Pronto, sì, buongiorno. Massimo, buongiorno. Lei non è che per caso ha giocato alla pelota, che così accontenta il dottor Confalonieri, anche no, solo una volta? No, per nulla. Per nulla. Nulla, Massimo con la pelota, niente. A che cosa gioca Massimo, immagino? A tennis? A tennis, sì. Soddisfatto? Sì, lo sono, però da un mese circa ho un disturbo al braccio destro. Mm. Al braccio destro perché ho perso sensibilità il mese scorso, mi è durata alcuni giorni, e chiedevo, siccome ho fatto una serie di accertamenti, ho fatto la risonanza magnetica alla colonna cervicale, ho fatto un attacco, cioè una serie di accertamenti per escludere qualsiasi altro problema, mi domandavo, alla spalla non ho fatto ancora alcun tipo di controllo, può dipendere dalla spalla un disturbo di questo tipo? Certamente sì, io sarei partito proprio dalla spalla. Anch'io. Sarei partito proprio dalla spalla, non è l'unica causa, ma è la causa più probabile, in quanto c'è sicuramente una sollecitazione ripetuta giocando a tennis della spalla. Se c'è una situazione predisponente, una spalla dolorosa, una sindrome da conflitto, potrebbe essersi determinato un edema, un versamento cronico a livello della spalla. Questo versamento potrebbe aver determinato la compressione di qualche via nervosa e questa compressione determina le sensazioni fastidiose, la mancanza di sensibilità, il formicolio e le diverse problematiche segnalate dal nostro ascoltatore. Quindi il mio consiglio sarebbe di fare senz'altro una risonanza magnetica in questo caso, che è l'esame elettivo della spalla, per vedere se ci sono delle problematiche. In questo caso le soluzioni possono essere anche relativamente semplici. Gianpaolo da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Eccoci Gianpaolo, buongiorno, è arrivato il nostro momento. Buongiorno. Lei che fa, Gianpaolo? Allora, io sono intervenuto in quanto, con grande piacere anche per il dottor Confallonieri, ho praticato un po' tutti gli sport di racchetta. Bravo, anche la pelota? Oh, anche la pelota paleta, in realtà. Che è vero, perché la pelota non sarebbe esattamente uno sport di racchetta. Ho fatto un po' una forzatura, ecco, lei mi corregge, grazie ai nostri ascoltatori. Dietro, grazie. E poi cosa aveva chiesto? Che vediamo se Gianpaolo l'ha fatto, un nome difficile che poi è il volano. Badminton, il volano. Ecco, possiamo chiamarlo. Badminton, sì, anche il paddle, sono tanti sport di racchetta divertenti, insomma. Ma senta, ma lei è proprio è molto portato, cioè tra lei e la racchetta c'è proprio un feeling, eh? Ma è nato perché un paio di anni fa sono venuto a conoscenza appunto del racquetron. Ma cos'è sto racquetron, scusi, eh? E il racquetron è una disciplina che, come un po' il pentathlon per l'atletica, riunisce tutti gli sport di racchetta. Ah. Quindi il tennis tavolo, lo squash, il badminton e il tennis. Tutti gli sport, diciamo, a nomina olimpica. Bravo Gianpaolo, e come le è venuto in mente? Perché lei, sapendoli fare tutte, ha detto mi misuro anche con... È venuto in mente perché all'estero è molto praticato, quindi mi è capitato di partecipare a una manifestazione di questo tipo e poi mi sono appassionato, insomma. E adesso anche in Italia, per fortuna, il racquetron, per fortuna mia, perché mi diverto molto, lo immagino, sta prendendo piede. Sì, senta, sì. Ma il dottor Confallonieri, che non so se il racquetron... Sì, ne avevo sentito parlare, però penso che sia ancora poco diffuso in Italia. Ma vorrei approfittare del nostro ascoltatore per chiedergli proprio così, rapidissimamente, fra questi quattro sport, qual è il più divertente secondo lei e qual è il più facile? Quindi due motivi per affrontarne o per avvicinarne uno, per dare un consiglio ai nostri ascoltatori. Allora, è difficile perché poi dipende dai gusti. Sicuramente il più difficile è il tennis. Cioè il tennis a primo approccio... Per essere praticato richiede molta tecnica e molto tempo. Squash, badminton, ping pong sono più o meno sullo stesso livello, sia come divertimento che come primo approccio, insomma. Ma lei si sbilanci, il più divertente. Più divertente squash. Squash. Grazie. Grazie Gianpaolo, soprattutto perché ci ha dato modo di conoscere questo racquetlon, che il nome sembra quello un po' di un mostro, no? No, beh, c'è il triathlon, il pentathlon, il decathlon. Perché c'è questo racquetlon. Grazie Gianpaolo, buongiorno e grazie, buon giochi. Marzia, dalla provincia di Novara. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei e al suo esperto. Senta, io ho 47 anni e ho sempre praticato tennis anche a livello agonistico, adesso non più, e anche tennis tavolo. E volevo capire... È pronta per il racquetlon, Marzia? Ma direi di no, direi che questo può bastare. Cioè... No, volevo solo sapere questo. Io adesso proseguo nelle mie insomma, ore di tennis, mi piace, mi rilassa quando non faccio le partite, quando faccio solo così dell'allenamento, dei palleggi. se faccio le partite ovviamente la concentrazione, l'attenzione mi rilassa un po' meno. Però volevo capire, continuando in questa pratica e soffrendo io un po' di fragilità di capillari, ci possono essere dei problemi? Finora non ho avuto problema, però potrei andare incontro a dei problemi, visto che il tennis comporta un movimento a scatti di gambe, così come il tennis tavolo? Ecco, era questo. Grazie Marzia. Vi ascolto per radio. Grazie. Grazie. Buon gioco. Una ginnastica oppure può essere uno stress? Ma no, in linea di massima direi che non è una controindicazione assoluta. Tra l'altro, un'attività che prevede un impegno così importante delle gambe favorisce il ritorno venoso, favorisce la circolazione in senso generale e quindi indirettamente, anzi, è un fattore preventivo. Indubbiamente ci sono questi microtraumatismi ripetuti e continui che potrebbero, in una persona che soffre di fragilità, favorire eventualmente la rottura. Il mio consiglio sarebbe scegliere ovviamente terreni più morbidi, terreni che diano risposte meno traumatiche, e questo è un consiglio anche un po' generale. Soprattutto se giocate a tennis, variate spesso il terreno e privilegiate la terra rossa e l'erba piuttosto che il cemento e terreni sintetici, che possono maggiormente favorire le tendiniti e le patologie da microtrauma. Dottor Confalonieri, spesso a tennis si gioca per periodi di brevi, con la bella stagione molte persone si scoprono i campi ed è un'occasione anche per praticare sport all'aperto. Ci sono dei vantaggi o degli svantaggi? Ma no, il vantaggio c'è, perché indubbiamente si fa un po' di attività e ci si diverte, quindi è positivo. Il mio consiglio sarebbe: fate magari un po' di ginnastica pre-tennis. Si fa la ginnastica pre-scistica, ma chissà perché non si fa la ginnastica pre-tennis prima dell'estate, e sarebbe utile farla. Proprio perché sennò si corre il rischio di un trauma acuto o di un problema acuto il primo giorno che si va sul campo. E se non abbiamo potuto fare un po' di ginnastica nelle 3-4 settimane precedenti, iniziamo con un po' di riscaldamento e soprattutto i primi 15 minuti evitiamo di fare la partita, ma palleggiamo con un'intensità inizialmente molto blanda e poi gradualmente crescente. All'inizio sempre gradualità, per chi riprende la racchetta in mano una volta alla settimana, due volte alla settimana, o è meglio ma soprattutto così, per lo gradualità all'interno della singola giocata, cioè iniziamo adagio e scateniamoci sul finale, un po' come i pezzi musicali con un gran crescendo, un po' come i fuochi d'artificio. Iniziamo con il singolo o con il doppio? Adesso qua la voglio, non so se la nostra Rita Grande è ancora al telefono pronta per correggerla. Troviamo un compromesso: se sappiamo già giocare iniziamo con il doppio, se non abbiamo mai giocato iniziamo con il singolo. Allora, noi vi aspettiamo per la prossima settimana insieme al dottor Confalonieri. Parleremo di muscoli, a volte sono nascosti, molto bene, vero dottor Confalonieri? Noi cercheremo di farli venire fuori, ma neanche troppo, perché poi tutto muscoli non va bene, non va bene. Vero? Ci vuole anche un po' di morbidezza, sì. Ma di muscoli, per come potenziarli, soprattutto per sottolineare gli errori. No? Esatto. Da evitare, perché c'è questa ricerca in alcuni un po' ossessiva al muscolo modellato, e che ci può anche esporre delle scelte non consone, non in sintonia con la nostra salute. Parleremo per la prossima settimana, il venerdì, quindi se siete muscolosi e volete già scriverci, se invece i muscoli non vi appartengono scriveteci lo stesso, dedicheremo un'intera puntata. Dottor Confalonieri, il tema l'abbiamo lanciato, possiamo salutarci e darci il benvenuto al prossimo venerdì. A risentirci a tutti e grazie. Va bene, dopo tanta attività sportiva ci siamo impegnati molto, adesso proviamo a rilassarci, a scaricare un po' le tensioni della settimana, a prepararci per questa fine settimana, augurandoci proprio di trascorrere in pieno relax, e ci ha raggiunto Benedetta Spada, che ci fa da guida. Ciao Benedetta. Ciao, salve a tutti. Allora, questo è la chiusura della settimana, quindi devi suggerirci un esercizio che ci valga per il weekend. Esatto, un esercizio che ci accompagni magari chissà anche in macchina durante il traffico per raggiungere una meta di vacanza, perché no? È un esercizio di respirazione, in questo caso, un esercizio che purifica e che ci prepara alla primavera, perché solitamente le tossine accumulate durante l'inverno vengono trattenute dal corpo. In questo caso, lavorando su una consapevolezza del respiro, vengono espulse quelle, diciamo, inutili. Quindi ci portiamo in una posizione comoda, possiamo essere seduti su di una sedia, in piedi, in macchina, ovunque ci troviamo. Iniziamo appoggiando il dito medio della mano destra sulla fronte. il pollice sulla narice destra, l'anurale e il mignolo su quella sinistra. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Chiudete la narice destra con il pollice. Inspirate attraverso la narice sinistra contando fino a 5. Chiudete entrambe le narici, trattenete il respiro contando fino a 5. Sollevate il pollice ed espirate contando fino a 5 attraverso la narice destra. Inspirate attraverso la narice destra, trattenete il respiro, chiudetela ed espirate attraverso la sinistra. Così si conclude la prima serie. Ripetete questa sequenza per 4 volte. Questo mi intriga molto, pollice anulare. E perché questo medio sulla fronte? Perché si dice che qui appunto sia il chakra della, insomma, che richiama appunto alla mente, all'equilibrio, che richiama poi all'ultimo chakra che è sulla sommità del capo, e qui portando il dito medio sulla fronte richiama una stabilità. Quindi e un meglio metterlo. Meglio metterlo il dito, comunque. Grazie Benedetta Spada, buona giornata a te, buona giornata a chi ci ha ascoltato. Noi ci sentiamo domani sabato per Questa casa non è un albergo, mentre lunedì come sempre vi aspetto per tornare a parlare di salute e di benessere. Buona giornata da Nicoletta Carbone.